foggia. Okay. Va bene, Antonè, grazie per il controllo, grazie a tutto. Salutami la signora Correa e ci sentiremo al prossimo, però prima di stasera verso le 6, quando rientro da quel controllo, non ci dobbiamo sentire. Se siete a tutti, me li saluti. Ciao Antonio, grazie. Io, ciao Mario, grazie. Alle prossime. Thank you. 10 sei qua a me. Comunque non te la lavavo conservata. Dove se la va a parte vado conservata, c'è anche barzucca. Dove se la va a parte ritengo in riserva per sicurezza. Che può sempre servire? Qua le cose del segnale a me non mi sta più salendo, si è di nuovo bloccato. Non riesco a darti quanto, quanto sei arrivato, però mi arrivi di voce, bella pulita di radio, perfetta. Ah, è meglio così. Se ti busti una base della tubo 2001, ti do lo stile della tubo 2001, mi offra. Vedi se si è preparati la base, perché a comprare non ti conviene. Costa 24 euro, ho chiesto io l'altro giorno a Fusaro. Costa più la base che l'antenna. Ma io ce l'ho la 2001, sto usando con quella, capito? Se trovo una base, sì, conviene, invece di buttarla la mettiamo da parte, quello sì. Ok, allora già va bene, già ce l'ho qua. Non sto usando intanto. Se trovi qualche base magari me lo dici, te la do, non è proprio per quella. C'è il falso contatto, non lo stampato, quindi non va neanche a mettere. L'importante è che l'apparecchio sta in trasmissione o fra. Qua, uno di questi giorni, quando ci avrai un po' di tempo, me lo lasci e facciamo tutto lo stampato, per forza l'ho fatto. E facciamo tutto il salato e nuovo, così togliamo il corso, quell'effetto che ha. Oh, basta, funzionando bene, a parte che non piace qualcosa lì, ma del resto penso che stia andando bene e lo lasciamo così, che non se ne frega. Tanto andiamo bene così. Ah, ok, lo lascio così, va bene. No, sta facendo benissimo, come anche il microfono sta facendo bene la verità. Pompa parecchio, pompa. Lascialo così, comunque la teglia ne è due, non è uno solo, quindi sei tranquillo, almeno uno di riserva ce l'hai. Adesso appena ti fai un pochettino di soldini te ne compri uno serio, la terza ti arrivi da casa, se ne voglia o non lo so. Yeah. buonasera a Dogo. Buonasera, doppio room 7351 circolare a K. Io stavo ascoltando lì, ma non c'ha la 68 Antonello? Io quando ho passato sono sempre uguali, sono bella, ma tutto che altro, non è che voleva la 48 per forza, ha chiesto quando lo voleva quello. Sempre no, o che sia 34, che sia 40 canali, sempre brava, perlomeno. Però 200 euro, non va a spendere 200 euro la verità. Ne ha due palazzini di luce, la 540 sta facendo bene adesso, e anche uno Zulia che c'ha. Se per pigliarsi una 48 potrebbe pigliarsi un 3.900 o un 4.500 per 100 euro, lo trovi. Magari lo trovi anche di meno. Oppure trovi un presidente che c'è le bande laterali e c'è riuscito sotto un canale per bandare una cosa più seria, e 5-10 watt direttamente senza toccargli nulla dentro. Ma io sto facendo un giro su internet, ho visto uno, l'MLS 200, non so se te lo ricordi, della Lafayette, con microfono Astral, e costava 100 euro. Sì, ma quello è un barattino degli anni 80, è poco vecchio già. È un vecchio già. Sul 200 era bellina gli anni che furono, esce bene, la verità, però è vecchiotto, incanta. Uno più, diciamo, dei nostri tempi, diciamo, là. Che 3.900 è vecchiotto, degli anni 80. Il 3.900 è uscito molto, molto dopo l'elevazione sul 200, oggi, perché sono uscite tre serie. C'era quello con frontalino dorato, quello con frontalino nero e poi uscito il Connex 4000. Sono uscito un altro segno. Figurati tu, e magari c'è anche linea dentro 600-100 watt. No, ma c'ha tutte le luci blu davanti, un bel bellino, è un bel bellino. Rimane cromato, con tutte le luci blu davanti. Un bel apparecchio, ma lo stavo per prendere, ma poi mi sono preso l'ITT 880, che è bellino lo stesso, costava a me. Beh, io grido io. Cioè, fare spese fuori per un baracchino per me non conviene più. Allora, per pigliarci un baracchino, cioè per spendere 3, 4, 500 euro, è meglio che ti compri un cosa, anche se è vecchiotto, per dire un Kenwood, qualcosa del genere. E c'hai un apparecchio che fa tutto, giri dove vuoi, capito? Ma i componenti sono usurati già, e da un momento ti può partire qualche cosa, invece quando tu lo compri nuovo è diverso, te lo godi. E ci sono gli apparecchi della Kenwood, anche di altra marca per dire, che sono versati in un negozio, rimessi a posto, visi allineati e costano anche poco. Chiaro se anche tu, ci sono apparecchi di quelli che fanno così. Uno va nel negozio, presta l'apparecchio suo, l'animatore, prende l'altro, quello lo lì, viene tutto quanto revisionato ed è garantito un anno. Io l'avevo fatto così, avevo comprato il Continente, 300 euro. 140, nuovo, non c'era un graffio, niente, tutto allineato, tutto messo a posto, e intanto quello disturbava al telefono quella che c'era di fronte a me, e mi ha fatto un casino lì, dovevo buttare un articolo sul giornale, e allora me lo sono venduto e preferisco avere dei baracchini e non disturbare nessuno, piuttosto che avere un 140 e dare problemi. A me non è mai successo di strubare, la verità, con 140, con 80, da quando ce l'ho a un po' di tempo non ho mai avuto problemi, tranne qualche volta che c'erano problemi nell'impianto anche la TV centralizzata. Infatti l'altra l'avevo comprata io, l'ho sistemato tutto quanto l'impianto e nessuno si è più lamentato. Siccome qui non spende nessuno perché dicevano che la televisione non la guarda nessuno, allora sono salito su. Da Bricco mi ha preso l'antenna di quella larga banda, quella archia di pesce, l'ho lanciata all'amplificatore, nella banda VHS, l'ho messa in verticale, boh, finito i problemi. Con ovvero me ne sono uscito. Voilà, buonasera. Attento, niente. Avanti Gianni. Chi è? l'amico. E Franco. Ciao Franco, mi hai sentito? Cappa. Autospurgo? Cappa, ciao già, mi hai sentito anche a te. Sempre Autospurgo, qua sempre portando la buona. Cappa, cappa. Ti ricordai tu un maracchino serio, se hai denaro ti faccio comprare uno modificato, bello, nuovo di zecca, nuovo, mai aperto, mai. E c'è una ditta che li vende, io l'ho comprato per la macchina, è un bombo, c'è il doppio modulatore, camera eco, bip, tutto quanto, luci blu. Quanto per 170 euro. Su Salus. Ciao, io me lo immaginavo, dice, che quel pezzo lì. 370 euro. E non mi si voglio, con l'alimentatore e magari anche l'autoparlante esterno. Lo so. Ma quelli sono di esportazione e li vendono così, anzi. Quello che c'ha dentro costa poco. Lo vendono 500 euro, così fatto qua. Già lo so, già. Guarda, come era a comprare il tubo 2000, anzi, io vendo il tubo 2001, da 24 ore sono la basetta. Figurati. Già costa poco una basetta. Manco fosse loro. La basetta che te la faccio a te. E l'ome che è entrato. E beh, poco buttuto. Sì, ti imbiglio, ancora l'apparato aperto, sono aspettando a te, a Budaino. Tu dicevi dove, con Riccardo, ieri sera l'hai mullato nella lavagna. Non ti ho lasciato la lavagna, a parte tutto stavi smontando il coso. Poi mi hanno chiamato per fare un lavoro, sono fuggito veloce, sono andato a Bricco, mi ho preso il pezzo e mi sono fatto il lavoro. A parte che io sai che non capo l'aria, quindi quando l'avevo appena fatto sono partito subito, ma cosa ho salutato, ti ho figurati. È entrato Claudio e me l'ha detto. E gli ho detto, guarda che gli ho detto di toccare quello del primo bianco che mi hai detto tu. E così, infatti ti avevo detto, e cosa Vittorio mi ha detto, dice che a Vittorio. Claudio mi ha detto, dice, dovevi portare a Vittorio l'apparecchio. Per fatto lineare qualcosa con lo oscilloscopio. Appare Roggero, dai, no, ma non fa niente, ci mancherebbe, di fronte al lavoro, già lo sai. Comunque, ben sentito, c'era anche Gianni, se non sbaglio, no? Eia, eia, non ti preoccupare, non ci sono niente. C'è Gianni, c'è Gianni. Ciao Gianni. Ciao Robert. No, mi riposo un po', se rimango ascolto, e poi mi idromo un poco perché sono sfinto. Vi saluto, noi ci sentiamo stasera. K, riprendi l'ode, dai, e fai girare. K, dimmi solamente, prima di andare via, ricordami quel sito dove avevi visto quell'ITT, perché l'ho visto su internet e lo voglio prendere, mi è piaciuto molto, Media Shop. Media Shop, dai, adesso lo guardo un attimino, vedo quanto lo stanno facendo, però se mi hai detto che lo facevano 90-120... Me lo prendo, poi c'è la GBC che sta facendo per l'Aran 48, sta facendo un buon prezzo lo stesso. Comunque riprendi tanto. Quanto? Per l'Aran 48 sta facendo 195. È troppo, troppo. L'Aran 48 ne trova 160 euro. Sì, e dove? Internet. Poi ci sono i BSX che costano, che hanno le luci blu, hanno tutte quelle cose lì che sono il nuovo tipo dell'ala, che ha un circuito a microchip che è diverso come circuito, però è sempre all'AN 48 che costa 168 euro. Dai, adesso cerco un attimino. Buon 144, dai. Oh, Alessio, guarda un attimino come sto uscendo di radio, se ti sembra che un attimino abbia migliorato, anche se magari un po' sta innescando. Li trovi tutti nello stesso sito, o è Media Shop o Media Shopping, adesso Media Shop mi pare che sia. Perché Media Shopping era quello di Canale 5, poi c'era un break, attenzione break, va avanti. passaggio, vieni avanti di nuovo, l'Alan 48 hai detto? 145 euro. 85, alla distributore di benzina, adesso è giù a cosa, a Cagliari deve essere. 85 euro sta facendo. E dove? Passa che non c'è agito, te lo controllo. Grazie amico, dai, vedo un attimino, e comunque sento Gigino, vediamo un attimino se a che prezzo me lo può trovare, come... Alessio, dimmi come sta uscendo di radio, io. Bene, sta uscendo, non sei amplificato ma sta uscendo bene, cioè non c'hai l'effetto delle... chiaro sai, di quello che ho io, che lo sto usando adesso. Ma non c'ho l'effetto di quello che stai... aspetta un attimino. E la... no, come non ce l'ho? Dovrei avercelo. Aspetta un attimino che abbasso un attimino i toni. Guarda se sto uscendo meglio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guarda un po'. Adesso va un po' meglio. Va molto meglio. Non sei come effetto Luca, capito? Quello ti volevo dire. Effetto Luca mi devo fare investire da un tram prima di essere come effetto Luca. Guarda un attimino. Ora, ora, ora, ora, ora, ora. Così innesca. Innesca, innesca, innesca. Così non innesca. Guarda un po'. Già va meglio. Prima un po' ti abito da abitudine stasera, così te lo fai fare questa cosa e te lo fai aprire un pochettino le leggi con lo strumento. Non penso che ti prenda molto, andiamo assieme, se vuoi, tanto dove la sera, alle 7:30, 8 meno un quarto di negozio, parli direttamente con lui. Ecco, ma ieri sera in frequenza, non c'eri tu, ma è entrato un attimino, poi l'ho già sentito attraverso bassa, mi ha detto che ha un problema di cose, a parte di consegne, perché dice che me ne hanno portato non so quanti. E poi dice che si sta organizzando un angolo dove poter fare queste cose perché l'aveva dismesso, capito? Ah, quindi è momentaneamente assente. A meno che mi chiedo io a coso, che c'ha l'oscilloscopio e ti fa l'allineamento. Stasera glielo chiedo. A chi? A Mario Chine, che c'ha fa di cosa, dall'altro di, come si dice, trasmettitore FM, capito? E lui lo oscilloscopio ce li ha, anche ne ha 4 o 5, ne ha. Capraugia, no vabbè, ma dai, ormai ho chiesto a Vittorio, non c'è problema. Tanto non è che sia una cosa urgente, non è che sto uscendo proprio male, male, male, quindi... già si può aspettare, anzi su questo microfono qua volevo provare a mettere la capsula microfonica, ma la distanza a cui bisogna parlare da questo microfono qual è? 50 centimetri, per il mezzo di 5 sto parlando io, a meno che non cambi la capsula, prova a cambiare la capsula, mi metti la capsula di un videocitofono, oppure in un coso, andrebbe bene, di un VHF, perché quella VHF è molto sensibile come capsula, e amplifica parecchio anche. C'è le tone abbastanza differenti, diciamo, là. Non è effetto paracchino, è effetto perché di solito il podcast sono perfetto in FM, quindi c'è bisogno di un audio molto più forte, capito? Caparoggia. No, la distanza è questa, è una trentina di centimetri sto ottenendo, dai. 50 mi sembrano esagerati, però se mi dici che non sto ottenendo quel risultato, perché io con l'altro apparato mi sento e sembra che stia uscendo abbastanza forte. L'unica cosa, posso abbassare un po' i toni leggermente, il mic gain dell'apparato e tirare su, ma no, inizia a fischiare. Ora, ora, ora, troppo, troppo. Aspetta un attimino, abbasso così, un pochettino, pure stazionario adesso non ne ho più, eh. Ehi, peppa, peppa. Cambiamelo che no. Non lo provi qua l'MP5, in quello che c'ho io, vediamo come esce, e poi tu mi potete casa tua. Ma si può fare anche così. Aspetta un attimo, ma proprio non si sente l'amplificazione, allora la differenza, sento il processore, questo è senza il processore, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, allora lo posso portare anche quasi al massimo, guarda un po', ora, ora, ora. Bello, santo. No, no, sta tappando appena appena, lascia, passati appena appena. Se per ti faccio vedere come esci, aspetta un attimo. Ola, ola, ola, e questo è col processore inserito. L'unica cosa è che sono riuscito finalmente a è autoalimentato dall'apparato questo, perché gli ho messo un cavo sul piedino numero 5 e si sta autoalimentando. Antonello, aspetta che io ho messo l'apparato a 6 e si sta arrestando. Vieni in casa, dov'è? Non sai che forse si sta autoalimentando anche il piedino, aspetta, se si stava aperto gli sposto il cavo, lo metto a freddo. Si vuole autoalimentare, no? Oh, sorello, ma questo weekend è tutto al rubinetto? È tutto al rubinetto, spiegami, spiegati meglio. Angolino del porto, al rubinetto. Ma, beh, cioè, non c'è neanche, a parte che, cioè, non ti devi permettere a dirlo a Baracchino, se no poi vengono a saperlo anche gli altri e tutti vogliono venire là, quindi meno le dici di queste cose fra chi è meglio, è, capito? Se no poi siamo in truppi, vieni, e non ci stiamo. Ali, Bacchi, hai un alghero? E quasi quasi il tempo ce l'ho, eh. Io sono Cernello, tutta zona Coscia Bella Bella Bella quella, eh? Qua altre due ore minimo, ma va più che bene. Chiude Florina, siamo nascendo la trattoria Ulbia. Io ho un po' di scarichi, tutti i locali belli, Pacchi. Tutta Roma di Bipit. Ecco, passare di un due canali, dai, che qua c'è gente. Vai, quanto lì c'è? Dammi la frequenza 27 125. Scusi, da più pure magari, ciao ciao. La Pagiafra, fate una buona, più tardi. Chissà lì i due, se questo è Rodello. Anche se è casino, eh?